Cominciamo un po' sull'esperienza dell'anno scorso, quindi abbiamo varie tipologie di appuntamenti che vanno dal totale virtuale al misto, virtuale presenza, al tutto in presenza. Quindi ci saranno le classiche, quelle che facciamo appunto da 13 anni, visite guidate, percorsi itineranti con attori e musicisti, ma anche percorsi misti dove, anche con l'aiuto dei codici QR, si incontra l'artista, ma poi si possono anche ascoltare in comodità lungo il percorso musiche e testi. La durata della rassegna? Ormai abbiamo deciso che la nostra estate è molto lunga e quindi, come l'anno scorso, tiriamo dritti fino al 2 novembre in occasione della commemorazione dei defunti. Si comincia con? Dal punto di vista virtuale è già cominciata, perché c'è già un percorso online da fare una caccia al tesoro, quindi ci si scarica la mappa e poi si va in giro per la Certosa a trovare poi anche contenuti multimediali dedicata a Ottorino Respighi, il grande compositore, forse uno dei più famosi compositori del Novecento, ma cominciamo già da questo giovedì con le prime passeggiate serali, che ovviamente, visto ancora i regolamenti, cominceranno alle 18, non cominciamo ancora proprio in piena notte. Beh, anche sperando con il bel tempo, che questo mese è un po' zoppicante. Quindi riprende la stagione in Certosa estate 2021, i luoghi nello specifico, proprio fisicamente. Con le visite guidate che vanno da passeggiate dell'arte, ma anche della storia, oppure anche del verde della Certosa, si andrà più o meno dappertutto, insomma. Con gli spettacoli, questi spettacoli, diciamo così, itineranti, teatrali, musicali, si andrà in alcuni scenari, diciamo, dal punto di vista molto estetico, piacevoli, quindi dalla Sala delle Catacombe al Chiostro delle Madonne, al Monumento ai Caduti della Grande Guerra. Sono luoghi che naturalmente si prestano ad accogliere le persone. Alcuni protagonisti, e se ci sono novità? Novità ce ne sono tantissime, perché proprio sulla virtù del periodo, avendo i numeri un po' ridotti per ovvi motivi dei gruppi, abbiamo fatto moltissime serate, quindi ci sono tantissime opportunità. Quindi si va da ormai un nostro compagno, dall'Alessandro Trampieri, regista attore, che proporrà un percorso su Dante Alighieri. Ci sarà anche, per esempio, Simona Sagone, anche lei da tempo che è qui, ma ci saranno anche alcune novità, come la compagnia Streben, che proporrà uno spettacolo dedicato a una stranissima figura di anarchico bolognese di inizio Novecento, o anche letture, poesie, di poesie per una sola persona, cioè si entrerà da soli, più o meno, da soli si andrà in un punto dove ci sarà un poeta che leggerà una poesia diversa per ogni persona. Non mancherà la musica. Non mancherà la musica, anzi quest'anno collaboriamo col Teatro del Baraccano, che ha questo per tutta l'estate propone una rassegna dedicata a Ottorino Respighi, quindi avremo visite guidate su tema musicale, ma soprattutto la serata di Ferragosto, per chi non saprà dove andare può venire al cimitero di Ferragosto, proponiamo uno spettacolo proprio con un concerto dedicato a Respighi. Collaborazioni, ne hai già citata una col Baraccano, altre realtà che vogliamo menzionare? Quest'anno siamo talmente pieni di cose che abbiamo anche la sezione progetti speciali, per cui oltre appunto al Respighi Project del Baraccano c'è anche il primo fumetto dedicato alla Certosa, quindi grazie a 800 una volontaria sta preparando questo fumetto che racconterà la storia del cimitero a partire dalla fine del Settecento, verrà pubblicato online a puntate e poi dopo verrà anche edito. Vogliamo ricordare anche un aspetto particolare della Certosa, che indipendentemente dai motivi di aggregazioni molto belli che ha appena detto Roberto, si può venire, ovviamente lo consigliamo anche da soli, per una passeggiata, per godere di questa introspezione, di quest'arte, di questa estetica meravigliosa, anche solo per leggere un libro, anche solo per una passeggiata, o anche solo. Sì, in effetti voi non ci vedete dove siamo in questo momento, ma siamo nel chiostro decimo della Certosa, che non è un chiostro molto grande, ma è molto piacevole, e si presta molto, per esempio, alla lettura. Si può venire qui, sedersi sui muretti al sole o all'ombra e godersi il cinguettio degli uccellini. Qui abbiamo una bellissima comunità di rondini, adesso abbiamo anche gli scoiattoli, peraltro, e quindi insomma. Una buona passeggiata, indubbiamente, e anche una buona rassegna per l'estate 2021. Ci sarà anche Radio Città Fugico per seguire gli appuntamenti. Grazie a Roberto Martorelli e una buona giornata. Grazie a te, William, e grazie a tutti della pazienza.